le cose, bistrattate dai molti sgomberi, mi serbano rancore. Si schiudono crepe lendini prudenti, suggerendo future aliene infestazioni. Calano i festoni di un vecchio compleanno, come occhiaie improvvisate da un dolore, immenso e subitaneo come una complanare. Vorrei paragonare queste serbate crepe a quelle di genti vicine che da poco fa furono in guerra. Là perdove le cose che fecero festa sgualciscono, ma anche a una subita lacrima di perdenti. Ma tutto ci si attacca e dappertutto depongo furtivamente armi da invasata. E tu non mi guardare mentre in vitro suppotenti confluiamo in guerre molto civili.